sono qua, sto piazzando il rosmetro. Io d'accordo. Allora, vediamo. Lo devo mettere all'altezza del viso, vediamo un po' quanto è. Le stazionarie. Stazionarie 3. Stazionarie 3. E dove? In 27. Scherzo. Vabbè, no, sto controllando le stazionarie in PMR, perché non le controllo da un po', ci sono state delle variazioni qua, capito? E quindi devo verificare. Ah, e qua? Ah, ce l'hai il rosmetro per il PMR? Sì, per lì. Quello che mi manca è quello rosmetro HF o per la 27, quello non l'ho trovato. Niente da fare, mica c'è anche Pomponi, oi. Io l'ho sentito. Vabbè, questo, cioè il computer acceso, c'è un apparecchio preciso a quello 5500 o MAT. Però c'è scritto, allora, Richard Travistente HF CP CRT Superstar SS 9009. Certo, V4 CP 10-12 metri. Beh, come mai il 9009 è così? Boh, 12 metri non ci arriva, non ci arriva perché no, non ci arriva il mio. Io ce l'ho il 9009, ma non arriva in 12 metri, a meno che non gli fai una modifica particolare. Sì, ma è preciso al 6009. Caspita, c'è scritto 9009 però. È anche più piccolo però, è più piccolo, frontalino molto più piccolo. No, ma io vedo la fotografia che è precisa alla 5005. No, ho sbagliato, il 9009 è più piccolo, eh? Ma lo conosco perché ce l'avevo io il 9009. E qua c'è scritto, costa 185 euro, pensione gratis. Allora, dice trasmittente HFCB CRT Superstar SS 9009. Beh, è precisa 5005. No, allora hanno sbagliato foto. Guarda che certe volte mettono un baracchino e scrivono un altro baracchino. 9009 lo riconosci? È uno solo, non può avere la forma di quello. Sicuramente hanno fatto un pasticcio in questo sito. Infatti mi sembrava strano. Se ce l'ho avanti, ce l'ho capito. Se l'ho avanti e c'è scritto così, ed è preciso il 9009, con la scrittura azzurra, con la scrittura azzurra comunque questo è. È che noi non abbiamo WhatsApp, se no me l'avreste mandato, mi avreste mandato la pagina, la foto e l'avrei visto. Ah, però c'è su eBay, si trova, già si trova, la trovi subito, è su eBay, è precisa 5.5, però con quello azzurro, le frequenzime, capito? A meno che, aspetta, 9000, ma non sarà, come si chiamava, il CRE 8009, per caso c'è scritto CRE 8009. No, qua c'è scritto, allora, Richard trasmittente HF CB CRT Superstar SS 9009. CP 10-12 metri, programmabile. No, allora sono delle scappe, no, sono delle scappe loro, hanno sbagliato foto o baracchino. Aspetta che lo guardo, dai, che prendo lo smartphone. Mi guardo, infatti, lo stavo guardando, mi chiamo avanti. Ehi, Antonello, ci sei? Antonello, sparito, Oh, come si sposta questo baracchino? Io sono 26 in trasmissione. Allora, ricezione sono giusto, in trasmissione sono 27 2 5 4 7. 254.7, sono 300 Hz indietro, caspita. Bubu. Cos'è, ma? Nulla, nulla. Pomponio. Ciucu ciucu. Oh, sarà, ma io non lo vedo, io vedo dove c'è scritto 9009, io vedo il 9009, dove c'è scritto 6009, vedo il 6009. C'ho la pagina, davanti, Marco, c'ho la pagina, ce ne sono due o tre, ce ne sono. Ah, dimmi il prezzo di quello che vedi tu, per caso è 280,79. Com'è? Il prezzo, dimmi. No, no, 180, spedizione gratis. Mandami una cassetta, sei gratis. Vabbè, ma senti Tony, ah? Non ce n'è Tony qua, no, qua si sta bene, ma bagno, sta benissimo, mandami una cassetta, sei gratis. E a Claudio mio, tu sei Claudio. Ehi, ciao Giovanni, buonasera. Buonasera, parliamo tu cosa, ma minimo, e non ti credo si capi fa bene. Buonasera, ma c'è piove lì, sì? Ehi, quando sta? Ma già si vede una bella aria, nera verso il ghiero, verso quelle zone. Ma io sono di fronte a te, Giovanni, no? Non sono molto distante da voi, no? Quindi il tempo è uguale a Sassari, sempre Sassari. E quindi risalta a parte di sopra, e non che i gatti cocci invece a farlo, non ne vado. No, sicuramente a Itti di quelle zone sta piovendo, si vede tutto nero, poi sta tuonando e lampeggiando da quelle parti, come ieri, ha piovuto lì forte, e a Sassari niente. Ma vediamo, se piove già ci vuole, dai, si rinfresca un pochettino. Bene, mi ascolti, Giovanni? Adesso sì, adesso ti sento bene, perché io sono levato, perché avevo il volume al minimo. Ti sento bene, a voglia, bellissima la radio, sempre al solito là. No, non ho niente a che fare con le radio, quegli altri sono assassini. Questo è un baracchino normale, con MB più 5, no? Non metto niente qua. L'antenna è una multibanda, 10, 15 e 20, capito? Sto andando, figurati tu, neanche a correttore d'antenna, c'ho uno e due di stazionari, c'ho in 10 metri. Va bene allora, le due, non sono niente. Io ne ho un sacchetto appena. L'altro giorno siamo saliti, l'abbiamo messa a posto, per forza, era regolata a 4, invece metterla a 7 era a 4, per forza c'erano le stazionarie, mentre adesso invece l'abbiamo messa a 7, ho messo il capo nuovo, è perfetto, uno di stazionari su tutti i canali. Quella misura bisogna rispettarla, più o meno, dai, 6 e mezzo, 7, sì, ma 4 è troppo basso. No, la Mantova è... No, questa non è la Mantova, questa è una multibanda verticale, capito? 10, 15 e 20 metri. Il baracchino è il DAC con MB più 5, già va bene. Mi sto per fare due chiacchiere e basta. Tanto. Il resto è tutto conservato, è tutto staccato dall'altra parte. Non ti hai perso niente, tanto io da ragazzo. C'è solo qualche sera così c'è qualcuno, ma il resto è tutto morto. È tutto morto, per cui no. Però qualcuno bisogna lasciarlo fuori, e per cui quando capita la cacchierata si fa, quando la pazienza si fa. Trovata con la pagina, Marco. Niente, dove c'è scritto 6009 sono tutti 6009, dove c'è scritto 9009 sono tutti 9009, e poi quel prezzo che hai messo non c'è qua, non lo trovo. Cazzo, è strano, è sulla pagina dei suoi ebay, dove c'è trovare, sì, è così, c'è CRT, allora, ricettore HFCP CRT Superstar SS 9009 V4CP 10 e 12 metri programmabile, così che si può mangiare nuovo. Però non trovo dove si trova. Metri addirittura. Ma cosa ne vedi? Cosa ne vedi intanto? Sono in abbuttati. Aspetta, mi sta chiamando mia moglie. Ma ogni volta sono di nuovo per rilassarmi, mi chiama. Riprendi Marco. Vai. Siamo guardati perché ci abbiamo acquistato. Non vale più la pena. Ce l'abbiamo per chiacchierare. Guardando siamo, però strano che non trovi questa pagina. C'ho io davanti. Lo so, mi pare strano anche a me. Però non la trovo. Non la trovo, ho già chiuso anche la nel browser. Comunque per quel prezzo è il 6.009. Sicuramente hanno sbagliato e hanno scritto 9.009 anziché 6.009, uno sbaglio deve essere, perché quello è il prezzo del 6.009. 9.009 costa di più, oltre i 200. Io ho avuto, poi c'è scritto la tua scelta, allora euro 185, spedizione gratis, poi c'è scritto così, aspetta, sotto, allora, modalità Superstar SS 6009, AMPM SSB e CWPA. Si può immaginare, ma hanno fatto uno sbaglio loro, là, è sbaglio che hanno fatto, Marco. Infatti mi sembrava strano, il 9009 è quello piccolo, si riconosce. Va bene, ma c'era anche Pomponio qua, ma è sparito. Sta rinfrescandosi, perché con i dati pari gli su. Ho avuto l'8009, può essere SX? No, ce l'ho davanti il computer, dai. Hanno sbagliato loro mettendolo in recensione, capito? Perché non è possibile, infatti sotto dove c'è il prezzo c'è scritto 6.009, si può immaginare. Infatti, no, io ho avuto l'8009SX, l'8009SX che aveva addirittura 50 watt, ed era di Mario Babbo Natale, capito? Funzionava molto bene quello, bel baracchino, bello robusto, poi non lo so che fine ha fatto. Mi sembra che l'abbia visto quell'apparecchio io, abita qua vicino a me, Babbo Natale, allo spigolo di questo palazzo abita. Non so se te l'ha conosciuto, lo vedo, lo saluto quando passo davanti, ma non mi sono mai fermato, è la verità. Ma si vede che non sta più entrando, perché non l'ho più sentito. No, ma c'è tutto comunque, c'è tutto, perché io siamo molti amici, ci sentiamo anche per telefono. Infatti un giorno me l'ha detto, ma tu vieni a prendere il tuo baracchino, così lo usi. Ma usi cosa? Gli tu non so cosa attendere me e mi dice buono, una bella. Come voglio, vado, non lascialo stare lì, già non si, ma bello robusto, grande, è più grande del coso, dell'S9, un po' più grande dell'S9. Un bel baracchino veramente fortissimo. C'ha bande a tutto andare, poi c'è la regolazione da 5 watt a 50 watt, c'è un dissipatore allucinante, molto bella la radio. Capito? Sì, lo so, abita lì vicino a te dove abitava la mamma. E ogni tanto capita che lo vedo prendendo la macchina e io magari affacciato dalla finestra e mi saluto e lo saluto, capito? Buonasera. Mia Gianfranco, ciao Gianfranco, buonasera. Sì, abita lì, sono andato anche da poco. Abita lì, dove abitava la mamma, lì abitava la mamma. Capito? Va bene, Avanti Gianfranco. Sì, buonasera a tutti. Stavo per chiamare Claudio, ero preoccupato, ho detto ma fa tantissimo che non lo sento. Tutto bene, sì, buonasera anche Gian Maria e non mi dire. Ho dimenticato il nome di Marco, accidenti, ciao Marco. Non ti ho più sentito, Claudio, sono impegnato là. Impegnato là, io sono già da un bel po' mi sono trasferito, non sono a casa, ho un baracchino che ho messo, quello valvolare che avevo, quello mio P5 che ha il microfono a palma, non mi piace, basta, una, poi c'è la verticale 10, 15, 20 e poi una X300 ho messo, basta, l'ho finito. Dovrò aggiungere forse un dipolo dei 40, adesso vediamo. Tanta attività non sto facendo. E sto aspettando che vanno in ferie di Massimiliano per smontarne le direttive, smontare tutto, mettere tutto dentro le scatole, intanto poi alla fine si guastano. Intanto vado, faccio girare il rotore, muovo un po' giusto per non ingripparsi. E boh. Ma è tutto da mettere a posto, nel senso da mettere a posto, nel senso che bisogna togliere tutto prima che arrivi l'inverno, perché a me quel parco antenne mi è costato un patrimonio, oltre 2000 euro, e quindi le voglio togliere, conservare, visto che non le uso, capito? E qua c'è una multiband, va benissimo, alla grande. Va bene, tutto qua Gianfra, per il resto meglio di così non si può stare. A riposo, tranquillo, sereno, ogni primo del mese mi vado con Gio Maria, andiamo a braccetto tutti e due per ritirarci la pensione, vero Gio Maria? Sì, primo, o il secondo, terzo, e quando abbiamo voi andiamo. No, non si guarda soltanto se è pellito. Buonasera Gianfra, appena io questo figlio ho detto, ma Gianfra che fai tu, deve essere andato alla Hawaii, o no? No, ciao Gianmarie, sì, accendevo ogni tanto, ma c'era solo propagazione, e quindi non avevo voglia, capito? No, spegnevo di nuovo perché non sentivo niente, sentivo solo quelli di parlare, spagnoli, francesi, allora ho detto troppo rumore, spengo tutto. Oggi ho fatto questa cosa, invece ho sentito bene che era operativa la frequenza, allora sono entrato. Anche se qua sta arrivando un temporale, non so niente da cose da vinti, vabbè, fatti tanti tuoni, non so, sono fulmini anche. E niente, è così, siamo sempre qua. Ehi, ai, io pensavo, ma forse in ferie, se n'è andato a qualche posto a farci le figlie. Vedi un po' se c'è ancora Marco. Marco? Sì, ciao Gianfranco, ben entrato. Dopo tanto, infatti se mette Buriana sta con l'antenna. Gio Maria, comunque esiste un 8009, si chiama CRE 8009, non è CRT, è CRE 8009 ed è una via di mezzo tra il 9009 e il 5005 o il 6009. È molto simile al 6009 però più piccolo ed ha la presa microfonica frontale. Ma evidentemente c'è stato uno sbaglio, hanno fatto uno sbaglio, capito, sulla situazione, perché qua dice così, HFCB, CRT, CRT Superstar, SS9009, U4CB, 10-12 metri, programmabile, ecco, infatti hanno fatto un casotto, hanno fatto. Marco, io mi correggo, è il 7700SX, capito, Superstar 7700SX, quello che c'ha Mario, 7700, non l'8009, capito. Infatti è così, dai, hanno fatto un errore, basta. Ok, Marco, mica c'è... San Franco. No, no, aspetta Claudio, non sarà per caso il Superstar 7000 DX? Fai mente locale, 7000 DX. Io ogni volta mi sento 7007. Sì, sì, hai ragione, perfettamente ragione. Il 7000 DX, mamma mia che apparato. C'era Mario, ma c'era il telefono, vale, me lo prendo. Ma no, non mi interessa perché tanto non ne uso, no. Ma lo voleva dare anche da poco. C'ha tutto lui, c'ha anche l'M500 da tavolo che era abbinato lì, aveva una radio favolosa. Il 7000 DX, bravissimo, conversione da 50 watt. Quella era una bella bestia, però è di parecchi anni fa, di parecchi anni fa. Vabbè, se funziona, ma il regalo te lo vuole dare, se il regalo piglia dilo, se lo usi 27, usa di una fottina. No, non lo dà manco se lo paghi a prezzo d'oro, lo dà a me ad usarlo, ma me l'ha già dato altre volte, capito? L'aveva tolto dal camion e me l'aveva dato a me, ma tanti anni fa. Figurati che lui abitava in Porta Sant'Antonio, lì, come si chiama, capito? Abitava lì allora, siccome faceva un bel TY e l'aveva tolto anche da lì e l'aveva conservato, ma l'aveva dato a me a usarlo, e l'avevo usato io a casa, ero qua, capito, a Sassari, l'avevo usato ed era, funzionava molto bene, una bella bestia. 7000 DX, sì. No, non lo vende. Però se glielo dico me lo dà a usare. Ce l'ha sempre dentro la scatola, l'ho conservato. Ma non lo vende assolutamente. Non lo vende perché era un... Non mi ricordo chi è che gliel'aveva regalato, l'aveva comprato, non lo so, forse con dei soldi che gli aveva dato la mamma o il babbo, quindi per ricordo se l'ha tenuto, capito, che i genitori non ce li ha più. Avanti Gianfra, riprendi. Sì, volevo dire a Marco che c'è sempre la sua ragazza là, ho visto che l'hanno dato di blu, una specie di blu. Oh, alla mia ragazza le hanno rotto la testa, era sulla Nuova Sardegna, si è svegliata con la testa sanguinante dietro, a quanto pare. Le hanno rubato cellulare, gioielli, cosa le hanno rubato? Non credo, forse qualche monetina che aveva, e l'hanno ricoverata a Sassari, capito? Le hanno dato una prognosi di 40 giorni. Ma è successo da poco, perché io sono passato lì esattamente ieri, a meno che non abbiamo lasciato lì tutto quanto. Ma forse hanno lasciato lì tutto quanto. Guarda, tu vai sul sito della Nuova Sardegna, no? E cerca nella barra della ricerca Elsa Sotteggia e ti leggerai l'ultimo articolo, leggitelo tutto. Io invece di darle un colpo in testa con la pietra l'avrei messa a fuoco. Sì, chissà, i stupi che c'erano, anche in tasca le avevano trovato. Sì, fu. Allora, nella domo l'appoggio, hai capito? Questo è come i Sassari. Invece di metterlo in sicurezza e di renderlo presentabile, sempre quella parte di Platamona è sempre più schifosa, perché ridai, aveva di Medù. Invece di legarla a qualche palo, gli hanno dato anche la tenda da campeggio per stare lì, si fa ancora più immondezza. Riprendi Giovanni. Marco, riprenditi un attimino, sto parlando di verticale. Eia Giomari. Ma sarà stato magari di quelli, ma io penso sempre a quelli buttati a Platamona, che ti controllano quando ti allontani dalla roba, quei nigeriani, li avranno visto un braccialetto d'oro, il cellulare, e quelli non hanno niente da perdere, cioè chi è che va a rapinare una barbona? Proprio un disperato, uno che non ha niente da perdere. E lì a Platamona abbondano, sono tutti lì buttati, poi c'era un periodo che ti controllavano un po', venivano in spiaggia, si guardavano molto intorno, una c'era addirittura una nigeriana di quelle, a me mi sembrava di quelle di che battono a Pratanietta, si era seduta a fianco a una mia borsa, una specie di, era una borsa per portare il gonfiatore, per il materassino, no, attaccata. sì, io sono portato un po', poi a un certo punto ho svoltato e ho detto, ma con tutto il posto che c'è non vi potete allontanare? No, perché era sua, no, perché ce la stava, forse ce la stava, voleva già accaparrare, era sua, ho detto sì, è la mia, insomma sono svoltato e non gli ho detto molto contatto. Chiaro, vedi una borsa, è inutile che ti ci attacchi, capito? Magari sperava che mi riflessi un po', ma non c'era niente da rubare, lì c'era robaccia, gonfiatore per il materassino, roba marginale. C'è un movimento strano, quindi bisogna lasciare almeno una persona alla postazione a controllare la roba lì. Sì, può fare quel posto, lascia perdere. Ma boh, comunque, è così e basta. E quindi Gianfra, tutto a posto allora? Sì, tutto a posto, niente in ordine, ma sempre. Vedi finché ci sono questi vogliono muovere bene, non so neanche a casa a mano, torniamo al buco, già lo vediamo anche in campo nazionale quanto sono ruffiani. Comunque ce li abbiamo buttati fuori da una parte e tentavamo di entrare dall'altra sempre. E vabbè, no, però altrimenti io mi sto dedicando alla truppi. Quindi sono sempre in giro, almeno 2 ore, anche ieri. E niente, mi riparto così. Sì, già vabbè, l'importante è divertirsi. Vabbè, dai, io mi allontano, ci sentiamo se ci siete più tardi, se coincide, altrimenti fatevi buona serata, ok? C'è troppo caldo qua, vado dall'altra parte. Ciao Marco, ciao Gianfranco, ciao Gianmaria e chiunque fosse in ascolto, dai. Alla prossima, riprendi Marco. Scusa Marco, ma dove sei adesso? Sei su? Una nuova costruzione? Sì. Io sarei già almeno una già l'ha messa l'antenna. Dopo perdo il pelo ma non l'ho visto, giustamente è meglio così, almeno in inverno ci sentiamo ogni tanto, va. Tanto non dà fastidio di dove sei, non c'hai rotture di palle da nessuno, quindi per stare tranquillo va bene, riprendi che Marco avanti ieri l'ho messa, mi già fra avanti ieri, capito? Perché c'era, ce l'avevo già, comprata, ma non è una antenna per la 27, è una ribanda praticamente della PKW, quella verticale 10, 15, 20, capito? E basta. E poi la X300 per le VLU, basta, non c'è altro, ma il tutto diciamo a 3 metri da terra, va? Diciamo così. In un plinto che c'era libero, è stato fatto un lavoretto a regola d'arte, ma altro non, sicuramente non le vedrai. Dai, ci sentiamo alle prossime, statemi bene, se coincide più tardi, altrimenti buon fine domenica a tutti. Riprendi Marco. Ehi, a Claudio. Vediamo se c'era qualcosa che ti volevo dire. Boh. Ah, mi pare di conoscerla quell'antenna, sì. Praticamente c'ha 3 stili, uno per ogni banda, tutte e 3 verticali, no? E ho visto. Certo, per la lunghezza, caspita, in verticale più di 20 non si può andare. 40 metri sarebbe già troppo lungo, lo stile è un quarto d'onda. A meno che non lo carichino un po', vabbè, comunque le conosco, sì, bella. Per i 10, per gli 11 hai dovuto ritoccare un po' qualche taratura oppure la stai accordando? Assolutamente no, c'ho 1 e 2 stazionari in 10 metri, 1 e 2 stazionari in 11, io ho sempre un po' di culo con le antenne. Sì, no, 10, 15 e 20, no? Ho già fatto anche questo, ieri ero in 20. E per il 40 non ho messo niente ancora, penso di mettere il dipolo che c'avevo e basta, il resto va tutto conservato, non li voglio più imbarrarsi, no? Devo dormire la notte io. Sì, della PKW, io ho tutto PKW, anche le direttive sono tutte PKW, capito? Va bene, dai, ci sentiamo, statemi bene. Mi prendevo già un nome, me ne vado all'aria fresca. Ciao Gianfra, riprenditela. Sì, c'è caldo anche qua. Non c'ho la bandiera proprio che è fissa, non si muove neanche, ma poco fa si muoveva, adesso sta allontanando anche la perturbazione, deve essere tornato il caldo di colpo. Un disastro. No Marco, per un'antenna per 40 metri, la fa un quarto ronda, un dipolino, sono 10 da una parte, 10 dall'altra, ed è una bomba. Non c'è problema, capito? Quindi è anche abbastanza corta se vogliamo. Tutto lì. Riprendi Marco. Va bene Claudio, dai, buona boccata d'aria, dai. Ho col il ventilatore a soffitto, ho un po' la voce afona perché di notte il ventilatore mi sta crepando. Sono in perizoma praticamente, sono pantaloncini molto corti, per non dire mutande quasi. E qua sto bene, certo non c'è fresco fresco, ma voglio sentire Gio Maria ci sei? Pomponio, sei rientrato? Eccomi qua Marco, ecco, sono arrivato adesso. Ciao Taccadio, l'ho sentito che stava chiudendo. Ciao, non mi verticale. No, poi mi è sparito, boh. È un telefono. Oh Marco, ho tirato la pagina e ho trovato un altro. 185, niente. A Cosenza è, sempre sui B. Sì. Ehi, lo vendono in molti quello. Ti volevo dire, allora, il CRT 6009, però credo che in 12 metri non ci arrivi. Mi pare che il programma o non ti faccia inserire il valore oppure proprio non perdi le specifiche, perdi potenza, non lo so. Io sapevo che partiva dai minimo 25, ma non me lo ricordo più nemmeno io, caspita, non me lo ricordo più, dai. Però dubito 12 metri, guarda, l'unico che andava in 12 metri, in 10 metri era il CRT, mannaggia come si chiama, era come un 3009 col frequenzimetro, no? E aveva questo selettore con 12 bande, e faceva dai 12 metri fino ai forse 29,7, forse anche 30 MHz, 30.105, non me lo ricordo però questo. No, anche questo è così, infatti. S9009, V4, CP10, 12 metri. Allora perché lo mettono 12 metri? Programmabile, capito? Due ce ne sono, così che non è che abbiano sbagliato, ma evidentemente deve essere qualche tipo così, capito? Se tu guardi anche sul display dei numeri, il canale qua 60, vabbè, quello potrebbe essere messo così apposta, 60 canali, capito? Però sull'altro sono 5550, ed è così, il riccio tra direttore, HF, CP, CRT, Superstar 9009. Vabbè, ma forse qualche tipo che hanno messo così, dai. Ma guarda, appena, a meno che non sia modificato, i 12 metri non li fa, non è fatto per fare i 12 metri, ha un limite di programmazione con l'apparecchio. Poi magari manipolando anche il programma, non lo so, boh, se accetta i valori. D'altronde anche certi Baofeng li hanno fatti che andavano fuori scala fino ai... Solo che poi non te ne fai niente, cosa te ne fai? Va bene. Antonello, riprenditi un attimo che vado in bagno per causa di forza maggiore, dai. Sì, fai comodo, diceva quello. Cava, il gas vive a teletemporale, blu, non si è vista mai con l'acqua come ieri. scusate, riprendo io, vi saluto tutti, sto scappando, qua c'è troppo caldo, è impossibile stare. Ciao Antonello, ciao a tutti, buona serata e buon caldo ovviamente. Ciao Gaffra, ci sentiamo, comprimere, e anche qua, si è ammatto il vento e sta mandando aria calda adesso, ma caldo veramente, comunque ciao Gaffra. Ciao a tutti. Ciao Gaffra, ci sentiamo le prossime. Avanti Gio Marie. Infatti, io ho chiamato 12 metri, mi sembra strano, 10-12 metri, ma però qua c'è scritto 12 metri programmabile, evidentemente hanno fatto che si può programmare a 12 metri, capito com'è la pazienza? Marco. È andata a fare la ciucciù. Se è programmabile, però devi, non sai come succede, quando devi fare la programmazione devi eliminare almeno una frequenza, quindi potresti magari perdere la 27 e tenerla in 10 e dei 12 metri, tutto lì. Sì, ma questo è un apparato, è l'inse che è come l'inse che è 5005, è preciso, tu guardi questo apparecchio, è preciso, la stessa grandezza del 5000, l'inse che è 5005, invece qua c'è scritto Richard trasmettente HFCB TRT Superstar 9009, io 9009 l'ho avuto da poco, l'ultimo che era uscito ed è piccolino, invece questo è preciso a 5005 dell'inse che preciso identico. Solo che il 5005 c'ha il display rosso, mentre qua questo c'ha la blu. Ho capito. Prova a scrivere apparati CB cinesi a vedere cosa ti esce fuori. Senz'altro ti apparirà anche lì, ti apparirà. Magari ti costa anche di meno. Perché ci sono. No, che mi interessa acquistarli, no, stavo guardando, infatti ho detto strano che hanno messo il Superstar a 9009, preciso a 5005 dell'Inter, preciso, abbia solo il display che è blu e c'è stelle rosse. Ecco perché stavo parlando di questo, non per acquistarli, non per fare acquistarli, non saranno. Poi uscito da sé Marco, quella qua in bagno, se si beve tutta quest'acqua, sta mezz'ora pisciata adesso. Eccomi, allora, comunque io ti parlo per esperienza personale, no, io l'ho programmato il mio, l'Intech 5005, l'ho programmato. Il programma dei limiti parte da 25 spiccioli, non mi ricordo quanto sia, ai 30.105, cioè il programma oltre non va, non lo puoi programmare oltre perché ti dà errore. Caspita, 12 metri sai quanto sono? 12 metri sono 24.890 fino ai 24.990 mi pare. E non ci arriva lì, non ci arriva lì, a meno che non modifichi il programma addirittura, sperando che l'apparecchio regga, perché poi perdi le specifiche, cala la potenza, capito? Però te l'hanno scritto qua, e se l'hanno scritto dovrebbe essere così, magari lo sarà preciso, programmandolo, però c'è scritto così. Questo invece costa 185, si può mangiare, sì che non può essere un errore, capito? Perché sono due apparati precisi, però costano uno diverso dall'altro. Quello è 180 e questo è 185, si può immaginare. Però c'è scritto così, è perché l'SS 9009 è piccolino, ha un'altra forma, se questo è preciso a 5005, solo che c'ha le luci blu questo, tutto lì. Vabbè, ok, riprendo. Eia. Aspetta, e come si chiamava? Allora, CRT, il Superstar 3009 EFT, Ricordati, Superstar 3009 EFT mi pare. Ecco, Foxtrot Tango. Proprio c'aveva una manopola da 12 bande, faceva effettivamente dai 12 metri ai 10 metri, tutto vazia, 12 bande lì. Allora, io invece nel 5005 ho memorizzato bande da 60 canali per banda, non 40. Anche a me arriva a 60 l'indicatore di canali. L'ho fatto per avere più frequenze possibili, dai. Il mio parte, in questo caso ho scelto di farlo partire un po' più in alto, parte dai 26.305 ai 30.105. Ma è così infatti, è così. È così, vai a Tony. Grazie. Questi apparecchi nuovi, per carità, ogni tanto ne scendono dopo così. Se ne avete a tutti quelli che escono, ti complimento il negozio. Sapo, guarda anche il presidente Gran. Cazzo, è bello, Marco. Ti piace quello lì? A me piacciono tutti, solo che ho finito di spendere soldi per la 27. Vabbè. Noi stiamo parlando del sorello, noi dobbiamo acquistare assolutamente, no? La cosa è, non ne fa niente, capito? Lo stavo guardando, bella e bella, però costano, costa, quello costa parecchio, lo saranno. A me una volta mi era capitato di navigare così col computer, tutto un tanto invece da questa pagina, a parte i militari, era uno, faceva da zero a... non mi ricordo a quanto, con l'antenna, il pacco batterie c'era, ma bello, costava la bellezza di 800 euro. Oh, quella portata l'ho avuto io, quello dell'esercito, 40 centimetri, quasi 50 lungo, certo. Era 12 centimetri della batteria, quell'antenna lunga a cannocchiale, l'ho avuto quello lì, me l'aveva venuto metà verde, ti ricordi? Sì, già me lo ricordo, ha già avuto anche l'accorso di vendita di quegli apparecchi, che ne sono quanti per voi, da Gare Pro Torres. Però questo l'avevo visto io, questo era bello veramente, con frequenza di vetro digitale, fa combattere, cioè, va via, l'antenna telescopica, usciva bello, veramente bello, ma lo concentro io, tutte le frequenze faceva, quelle che volevi, non mi mancava nulla, c'aveva anche lo strumento, bello, bello. Quello interessa a Marco. No, ho finito con le radio. Lo sarà Marco. Oh, cosa fa? Tutti accatastati. Sembra che ce ne sono 5-6. Tutti accatastati, neanche li tocca più. 5-6 già si tiene pochetto. Io ho 1, 2, 3, 4, 5 con quello grande. E quando banda, poi c'ho i due portatili di Bofeng e poi gli altri due portatili di Bofeng. A parte il portatile, quella da canali, poi il resto, basta, finito. Era la settimana scorsa, ho dato l'altro Galaxy, quello che volevo dare a te, e l'ho dato invece a... L'ho spinto la settimana scorsa, l'ho spinto. Adesso mi è rimasto questo qua, questo per quello con la scheda, capito? Che si può usare con la scheda oppure senza scheda, ma questo non lo do. Questo è nuovo, capito? Per cui me lo lascio là, perché a me non mi piace, dai, mi piace troppo, perché nuovo questo, nuovo, sai devo dire nuovo. E poi questo, certo, l'ho pagato un sacco di soldi questo qua. Ma non lo so mai, io gli ho voluto accendere, già lo senti com'è. Ehi, già esce bene. Mi sono tirato anche i due portatili di Aesu, 2 metri. L'FT 411 è, figurati, Marini. E ce li ho qua, c'ho la coppia. Yes. Oh, c'ho il 5005 per l'Instagram. il presidente Lincoln, questa versione 2, ciò che cobra i TX-200, che c'ho l'S9, ma sono tutti accattassati, ogni tanto le tolgo uno, lo faccio scaldare e dopo lo rimetto a posto. Allora, adesso da dove c'è il coso? L'A87, quello che avevo riparato. Poi sta per me che ce l'ho sopra, il 3009 altrettanto, cioè quando è 4000, là c'era un apparecchio, basta basta avanzano, non me la fotte nulla. Ah, mi sono dimenticato il 7009 pure, che l'ultimo che ho preso era il 7009 insieme a Graziano, abbiamo preso due. Anche quello c'è, e l'ha catastato anche quello lì. Cava, cava, poi io avevo lasciato tutti i nocchi. No, non piglio più niente, no, se la piglia il Napoli. Rimangono solo quello che c'ho e basta. Ma come vendo? Lascio qui. Un domani userà mio nipote, mia sorella, gli apparati, o mio cognato. Antonello. Non si deve sentire, così arrivano i cusi, cazzo, veloce. Tocca, aiutamela a me. Ti ricordi cosa ti ho detto io, prima di operarmi? Ho detto, se crepo, lasciate tutti i miei baracchini a Pomponio, tutte le radio che ho a Pomponio, però non sono crepato. Così che non te ne va. Ciccia, Antonello. Ma ti la metti se mi aveva detto un gozzo? Cagliani capi due, una vita. A te guarda che se dovessi morire, lascia tutto a te, vai, ti devo dire che siamo andati giù, tu vai. Non me ne portare nemmeno, ho detto, se no mia moglie mi butta fuori di casa, ho detto, che basta la mondezza che c'ho. Ah, aver trovato una vitrinetta bella, come voglio io, l'avrei messo in destra la vetrina, buona, chissà chiave. Se ne erano arrangiati, cosa. Però sono belli in vetrina, Però bisogna trovare la vetrina giusta per loro. Sì, ma il problema sai cos'è? Ma non ce ne ho più noi, che se ne frega degli apparecchi. Fanno la fine di quelli di Mario. Capito? Che sono stati venduti a uno, quindi cosa è inutile stanno a comprare 50, quando poi tu magari hai speso un saccaccio di soldi e i tuoi figli piglio si vendono tutto, la nata per lì a fottidini. Gli ha rimanuto quanto così, e così faccio anch'io. Quando non ce l'ho più io, non si sa che fine fa questa cosa, o ce la venderà mio cognato, mia sorella, capito, tutta questa roba qua, non penso che si tenga nulla. Se io te lo dico già, quando un giorno creperò io, se c'è mia zia ancora, ci butterà tutto nella mondezza. Sì, lì di scarica si fa la lavoro, te lo dico io. Non sai come vanno di baracchini, come il pesce, anzi come le sardine li prendono, perché me l'aveva detto Emanuele, un giorno aveva buttato un fiorino pieno di baracchini, perché era di un tecnico che era morto, ne aveva pochi baracchini lampati, ha preso e lampato tutto, vedevi gente entrare dentro a prendersi le antenne, a prendersi i cavi, a prendere gli apparecchi, a portarli a vendersi. Sì, ma nessuno entra più nuovo, capito? Non entra nessuno. Cioè qualcuno, i baracchini li avrà comprati, ma non entra nessuno di nuovo. Come vedi non se ne fanno niente poi. Anche se li comprano dal bidocchio lì, non se ne fanno niente le persone, i baracchini. Se non li usi non te ne fai nulla. Sì, li useranno per ascoltare, cosa ne so? Metteranno un'antenna in casa e ascolteranno le cazzate nostre. Cosa vuoi che facciano? Uno che non trovo qualche appassionato, lo mette su internet e se li vende così. Poi, comunque la gente per fare i soldi vende qualsiasi cosa. Io ho visto questo baracchino con la ruggine, proprio tolto da sottoterra, sotto la sottoterra, ancora con la terra sopra attaccata, con qualcosa arrugginito. Ma io dico, se sono scemi questi, come puoi vendere una cosa del genere che sicuramente non funziona? Eppure uno su YouTube lo faceva, vendeva un kit di gomme per auto vecchie, usurate, le avrà prese dai Mondezai, eppure l'ha messo su eBay e le ha venduti. Ma chi gliele compra? Nessuno. Di tutto vendiamo adesso, tanto per fare i soldi con la fame che ci abbiamo. Se continuiamo così ci vendiamo anche le sedie, i tappeti, i tavolini. Vabbè, no, io non mi piace comprare baracchini anche dal bidocchio, tutta roba tirata, condizioni pessime, capito? Io preferisco comprare nuovo, se possibile. Infatti compravo nuovo, perché a me non avevo prima di tutto 2 anni di garanzia. E poi almeno sapevo che era nuovo, non trattato chissà come, capito? Non te lo dico così, quando c'è stato il terremoto, fuori. Si vendevano anche le sedie, i tavolini, di tutto, andavano a cercare oro. Capito? Ci sono i giacalli, ci sono, ti credi? Per carità. Sì, l'ho visto, però il sciacallaggio è punito, cioè se li beccano li mettono in galera, capito? Magari si fanno 2 giorni e poi di nuovo fuori. Lo sciacallaggio è vietato, ci mancherebbe. I romani già non ne fanno niente, non ti preoccupare, sono i primi a fare sciacallaggio, quindi, capito? Non mi fidi per dire, tutti questi apparecchi dentro la villetta in campagna. Passano camioncino, si può usare tavoli, tutto, frigorifero, lasciano la casa completamente vuota. Basta 10 minuti, mi assento, dai, rientro su. Appa. Così è. Va bene. Io l'unica cosa di bello che ci ha acciappato da poco è il corso. Il fondatore nuovo, di Ruspi, imbustato e tutto, scatolato. C'era un televisore di quelli col CD, c'era un televisore, uno stereo col CD di quei radioni, funzionava, l'ho regalato. Lo so, però io non mi piace prendere, ma lo sai, i primi tempi che a Piazza Liceni avevano istituito quel martedì, quel gettito di roba, no? E viene il camion a prenderlo, le prime volte, primissime volte, ho visto roba nuova, c'era una yogurtiera nuova, ancora sigillata col cellophane, la gente butta roba nuova, però non ne toccavo, perché non mi piace prendere la roba buttata dagli altri, a parte che ce l'avevamo già la yogurtiera e tutte le altre cose, ma vedevo roba nuova, quindi prima era libero, te lo potevi prendere, poi hanno fatto il divieto, non potevi, com'è che si chiamava, era vietato prendere roba, aspetta come si chiamava, adesso è di nuovo lecito, adesso di nuovo puoi prenderti roba da quel mucchio se vuoi. E non è così, no, ci sono i balancini, sono i primi che la portano via loro la roba, perché i dipendenti del comune, prendeva questo qui col camioncino del comune, prendeva, si caricava la roba e se la portava alla Portobello a venderla. Capito, frigoriferi, lavatrici, tutto si bussava, si riempiva il frigorifero, lui bello tranquillo, poi andava direttamente a consegnare. Lì su, capito, finché non sono intervenuti i balancelli, che allora l'ho controllato anche a loro, perché c'era stata una denuncia, capito, dice non lo piglio io, non lo piglio Marco II, ha detto. Adesso c'è quella pattuglia dei balancelli con la macchina rossa, quel fuoristrada, adesso non toccano più niente. Se vuoi puoi andare a prendertela, non c'è più il divieto, loro possono dire niente. E poi già lo sai che quando c'è la Zoofi, la Liga controlla, sono i primi che si accaparrano le cose migliori. È lo stesso quelli del furgone, del camion che butta la roba. È diventato tutta una specie di arraffa, chi arraffa prima, capito? Carità, se impegnassero le pattuglie in cose più importanti invece, a controllare quando buttano le lavatrici in campagna, quando fanno quelle discariche abusive intorno a Sassari, che sarebbe più importante. Quelli non lo controllavano mai. Dove vado a fare, come si chiama, per fare le telecamere non ho fatto niente. Figurati. Non ho fatto proprio niente. Non ci sono soldi, non è capitato al comune, non ci sono soldi. Ogni tanto cambiano assessori, hai visto che ogni tanto cambia assessori, quello, il sindaco. La pari da Cesuglie, meno male l'ultimo anno. Il prossimo anno farà delle candeline, non ne fa più. Quest'anno lo piglieranno, no, a fischi, no, a uova, vedrai. Aia. Va bene. Ok. Sono senza parole. Senza parole, sì. Che caldo, che noia, che noia, che caldo. Ma con filo di vento, nulla. Si è mangiato il gelato poco fa. Ma con quello va rinfrescato. Ah, mi hai ricordato una cosa, che abbiamo i gelati. Me ne ero completamente dimenticato. E dopo me lo piglia un gelato. Cornetti alla marena. Buoni, buoni. Vediamo che ore sono, perché io mi sto dimenticando anche oggi la terapia. È molto molto male, molto male. L'ospedale sì, pensa, lo devo pigliare la mattina. Vabbè, non succede niente, però adesso vado a pigliarmi le pastiglie, dai Antonè. Poi se ti trovo rientro bene, se no dai, ritieniti salutato. Sì, sono qua all'ascolto, non ti preoccupare. A dopo. Ecco qua, mi sono dopato. Il gelato preso te vai? No, no, ho preso le pastiglie. Caspita, qua mi segna 27254.6. E come scalda questo va indietro, questo baracchino, capito? Appena accendi è centrato, poi scivola in basso. Più scalda più scivola, poi credo che dopo un certo... vedo che è già caldo, dopo un certo punto si stabilizza. Se lo porti in Groenlandia, stai tranquillo, già non si accende. Vabbè. Dico, credo che c'è, rimane bello fresco. Ma guarda un po' che mi dovevo abbandonare lo smartphone. Mi trovo male adesso perché... Aspetta, c'ho due numeri fermi, non c'ho WhatsApp, eccetera. Va bene, provvederemo quanto appena possibile, soldi permettendo, un nuovo smartphone. Sì, te lo prendi nuovo, cosa stai a girare? Così, lo fai prima. Capito? Quello sì, io ne ho un altro, ed erano tutte e due di 4 anni fa, mi sono usciti mi pare 3 o 4 anni fa, io l'ho comprato solo mi pare a gennaio 2015, gennaio 2015, 16, 17, 18, 3 anni e mezzo sono durati, o meglio uno funziona, l'altro si è rotto, anche perché poi la RAM è troppo poca. Un giga di RAM è poco ormai, ormai tutti hanno 3, 4 giga, già la fascia media dei, capito, la fascia media degli smartphone. E poi i top di gamma arrivano a 6 giga di RAM, alcuni addirittura 8 giga, però è una cosa rara, più che altro 6 giga, capito? E la RAM è una cosa molto importante perché se non è quella si rallenta tutto, non fai nulla. Vabbè, quello già è vero. Tutto fai così e non ci puoi fare nulla. Sai cos'è? Che quelli moderni di adesso, di fascia media, li stanno facendo tutti enormi. Per esempio il mio credo che sia un... non so se sia 5 pollici, 4, boh, dovrei controllare. Comunque sta nella tasca del pantalone, la sai la tasca cosciale, no? Quei pantaloni che hanno tutte le tasche anche sulle cosce. E lì ci sta benissimo in tasca. Se prendi uno di quelli grandi di adesso con lo schermo a 6 pollici, col cavolo che ci sta in tasca, ci devi portare per forza un marsupio a tracolla, capito? Figurati. Questo non è elastico, cazzo. Devo cercare un elastico larghetto. Se lo trovo. Non vedo come lo gribba. In DVD. Al calore si crepano, cazzo. Al calore già ne sopra l'elastico. Cosa ti volevo dire? Sì, che questi smartphone di fascia media li stanno facendo tutti grandi, 5 pollici e mezzo se ti va bene, ma sono quasi tutti 6 pollici, sono enormi. Sì, è bello vedere i video, caspita tutto schermo, eccetera, però sono anche un po' ingombranti rispetto al mio. A meno che non ci sia un modello specifico che sia abbastanza veloce, però con uno schermo da 5, tipo il mio. A meno credo che sia da 5, non riesco a trovare i dati del mio. Aspetta, non ti stavo inseguendo, stavo cercando la cosa. Antonè, il Polmar Digital Work è uscito di catalogo, brutto segno. Vuol dire che adesso ti devi accaparrare le batterie di ricambio, perché poi non troverai mai più batterie nei ricambi. Guarda, quello che dicevi tu, e quindi c'è attaccato al tram. Conta che è uscito tanti anni fa, mi Digital Work è uscito, caspita, quando è uscito? 2011, 2012, cioè già sul mercato da oltre 5 anni, e poi, capito, poi i prodotti si cambiano, fatto sta che è proprio non c'è più sul catalogo Polmar, e c'è un negozio online che vende le batterie di ricambio, costano 27 euro l'una. No, così quando si esauriranno quelle batterie che ho già, almeno le batterie già pronte, le carico una volta al mese, le tengo cariche. Sì, beh, ti conviene fare così, a meno che non trovi un falso alimentatore, cioè il falso alimentatore, una falsa batteria, la alimenti direttamente a 12 volte se la pigli in culo. Allora, il battery eliminator per quel modello non esiste, ho controllato in Cina, dappertutto, però io volevo in futuro aprire il pacco batteria con le dovute cautele, cercare di aprirlo senza rovinarlo, togliere la batteria, risaldarla o quello che è, e dentro metterci il battery eliminator, proprio il circuitino del battery eliminator del Baofeng, capito? Una volta che riesci a mettercelo dentro alla batteria originale, la richiudi e c'hai, te lo fai tu praticamente il battery eliminator, capito? Se 8 volt non ci vuole molto, ci vuole 78,08, se 12 volt 78,012, non c'è altro, c'è un transistor, capito? Un stabilizzatore c'è, un reaccio. No, solo un transistor. Sì, comunque, no, basta anche comprarsi già quello delle Baofeng, ti levi la scocca della batteria, c'hai il cavetto spiralato, c'hai questo transistor, lo metti all'interno della... Però che stronzi che sono. Cioè, se uno c'ha questo portatile comprato da poco, no? Praticamente una volta che venderanno queste poche batterie in giro non ne troverai più, e una volta esaurite le batterie te le attacchi alle chiappe, così è. E sono usa e getta questi portatili, capito? Sono usa e getta, non solo Polmar, ma anche Yaesu, ti ricordi? Ma Yaesu, e tutte le marche sono così. Il TH75 che avevo io, il TH77 che aveva Luca, e lui non trovava più la batteria, non, a parte che era vecchio di molti anni, non si trovano più le batterie, quindi portati le, ce lo devi buttare, capito? Grazie di politica. E allora potevano fare, almeno la Polmar poteva fare una batteria vuota, in modo da mettere le stilo, le mini stilo, e avresti continuato a usartelo per decenni quell'apparecchio, capito? Per esempio il Polmar Easy, che è il più diffuso, diciamo, il più noto, ti dà di serie sia la batteria ricaricabile che la batteria vuota per mettere le stilo, capito? O le mini stilo che sia. Ma così un giorno che la batteria muore, puoi mettere le pile e vai sempre, capito? Lucere sempre, invece quelli usa getta. Va bene, me ne ricorderò. Beh, purtroppo è così, non ci puoi fare nulla. Oioia. Ce l'ho io buttato qua. Qua con batterie. Devo ancora sistemarmelo, figurati. Era che bellino, me l'hanno regalato. C'è solo il pulsantino della portata da cambiare, basta. Ma era BN Napoli, un TMVD. Non mi interessa nulla, lo lascio così com'è. Quando mi capita uno uguale me lo uso per pizzi. Meglio. Il batterio eliminato era una grande cosa, la maggior parte dei portatili cinesi ce l'hanno, eppure quel modello mi pare è basato sul modello Zaston oppure altre marche tipo quelle, non hanno fatto mai un battery eliminator, e guarda che in Cina gli sarebbe costato pochissimo farlo, proprio per quell'apparato. E vabbè, infami, luridi, sono cose che capitano, purtroppo, capito? Trovate a becco, beh, perché cavolo non si apre. Aspetta, cazzo, che vado se cazzo, va, se viene bello, ti devo cercare di aprirlo. Aspetta appena. Caro Pomponio, sì, il Polmar Easy è quello più diffuso, diciamo, dei vari. Naturalmente è un normale PMR, no? C'è un'antenna abbastanza lunga per essere PMR e rende abbastanza. Vabbè, comunque già si trova la soluzione, con quel trapanino, cioè quelle batterie le fanno pressofugge di solito, ma bisogna trovare il modo di aprirla e metterci quello che ti ho detto, là, che ti ho detto che è solo un transistor, così, che regola trasforma da 12 a 7,2 volte, in pare, o quant'è. 12, 7,8 o 7,5, dipende. 2,5 volt o 7,5, voi 8 volt o 7,8, voi 12, 7,12, capito? Sono gli stabilizzatori di tensione. Eia, eia. Va bene, se ne riparlerà poi, dai. Anche perché non costa nemmeno poco, no, quell'apparecchio, avendo quelle particolarità, non costa pochissimo e non gli danno nemmeno un battery eliminator, luridi infami. Non ci puoi fare, proprio niente, no, la colpa tua. No, vabbè, certo, no, però lo fanno per portatili da 30 euro, lo fanno per quelli Baofeng UV5R che ci mette il battery eliminator, e non lo fanno per un apparecchio che costa 120 euro ormai, un portatile singolo 120 euro, capito? Non le capisco le aziende cinesi, si perdono, oppure quelli lo fanno per vendere un altro, capito? Dice così questo pirla fra 5-10 anni senza batteria se ne ricompra un altro digitale. No, ma se non fai così non c'è commercio, già lo sai. Quindi bisogna fare quel tipo di ragionamento. C'era un po' di gente, poi avevano caldo e hanno cambiato stanza, c'era Claudio, c'era come si chiama, Gianfranco, Gio Maria che fa e viene, Pomponio c'è, eccetera. Ah, che vita. Vabbè, come stai, Marco? Bene, però naturalmente soffro il caldo, vabbè, qua ci sta ancora bene in questo momento. Cosa ti volevo dire? Allora, uno dei due smartphone è partito, purtroppo più di 18 anni non durano, sono fatti proprio per cambiare smartphone. E cosa è successo? Non funziona più? Allora, quello minore, sono quasi uguali, aveva due sim, no? Cioè il numero mio telefonico solito e poi la scheda per navigare. Ha cominciato a avere riavvii continui, si accendeva, si riavviava, un loop continuo, capito? Si riavviava all'infinito. Allora gli ho tolto tutto, salvato le foto dalla scheda SD e l'ho messo da una parte. Adesso entro 6 mesi me lo voglio prendere nuovo, qualcosa di un po' più performante. Mi piaceva il P20 Lite, oppure molto simile il P Smart Plus, e ti dico perché c'ha appena, gli hanno messo un processore più veloce, gli hanno messo una batteria appena, anziché 3340 mAh. È difficile scegliere con tutte le marche che ci sono e tutti i modelli. Ma io non capisco, Marco, con queste batterie invece di migliorarsi si sono peggiorate. Io l'altro che avevo durava una settimana la carica, una settimana, e adesso le batterie durano massimo un giorno, poi deve caricare. Dipende dal telefono, dipende dall'ottimizzazione dei consumi energetici, sai, gli smartphone non sono tutti uguali. E tu cosa avevi preso già? Ricordamelo, che non me lo ricordo. Cos'era un P20 come? Lite, normale o Pro? No, io ho preso il P10 Lite. P10 Lite. E va benissimo, io ce l'ho già un po' e va bene. Non ero molto, ero un po' scettico perché questa marca Huawei non l'avevo mai sentita. L'ho sentita per la prima volta, ti dico la verità, da cosa? Da Graziano, che ha detto che la figlia ce l'ha preso Huawei, però io pensavo che avesse sbagliato lui la parola, beh, sbaglia sempre. E invece no, aveva ragione. Sì, io le avevo presi questo smartphone a gennaio 2015, però in realtà era uscito già un anno prima, quindi ho già preso uno smartphone, se vogliamo, un po' superato di un anno, capito? E adesso c'è solo l'imbarazzo della scelta. Molti parlano molto bene dell'Honor 9 e l'Honor 10, che a sua volta è una sottomarca di Huawei, ma fa un bel modello, è già un colosso. Adesso te ne dico una. Se tu prendi il top di gamma della Samsung, l'S9 Plus, o come si chiama, il 9 Plus, ti costa roba di 800 euro, 700-800 euro, se non di più. Se prendi la Huawei top di gamma, cioè il P20 Pro, lo paghi meno di 600, capito? Cioè, a parità di prestazioni, proprio il massimo, il top, ti costa qualche centinaio di euro in meno, 100, 150 in meno, forse anche 200. E molti la criticano, molti sono fissati con lo Xiaomi, Redmi Note 5, però a me questi Xiaomi sono un bel onfi, perché anziché la EMUI hanno l'EMUI, sono proprio più cinesi, non lo so. E poi francamente gli Huawei montano schermi Samsung, lo sai? Cioè la Huawei compra gli schermi dalla Samsung e li monta sugli Huawei. Invece gli Xiaomi certe volte, a seconda del modello, hanno degli schermi lonfi, proprio schermi cinesi sono. E alla fine ha comprato uno che è simile a Huawei cinese e va benissimo a fare delle foto eccezionali da internet, l'ha pagato roba di 200 euro in meno del Huawei. E praticamente ci aveva un telefono buono, l'ha perso in discoteca, quindi non l'ha più trovato, è ritornata anche a vedere se l'avevano trovato, niente da fare, ha provato a fare il numero, non rispondo, niente. E oramai ci aveva l'Apple. Eccomi, l'Apple è poco costano, mamma mia! Che poi tutti questi Huawei hanno un po' la forma dell'Apple, no? Solo che l'Apple magari lo paghi 1000 euro, 1100 euro, no? Il top di gamma, e la Huawei 550, 590, capito? E poi a me l'Apple, mi dispiace, ma è troppo alta di costi, troppo alta di prezzo, cioè tutto il mondo a sé, a me piace Android, poi qualche smartphone a Windows, quello di Pomponi ha detto che ha Windows, io mi sono stupito, perché non sapevo che Windows fosse anche su certi, e comunque preferisco molto di più Android, più flessibile, più un po' più protetto dovrebbe essere dal molletto di certi virus, Gianni, mamma mia, che si installano sulla ROM, proprio non li togli più nemmeno formattando, ce li devi buttare, virus terrificanti, Gianni, ho letto le caratteristiche, roba impressionante. Manco formattando, allucinante. Vabbè, ma noi l'avevamo trovato un'occasione, questo uomo grande, gli avevano regalato questo Apple, e non riusciva a usarlo, quindi non l'ha mai usato, gli ha dato un nuovo, gli ha fatto pagare una cazzata, capito? L'ha trovato da coso, subito. Siamo andati, abbiamo visto il telefono, ha controllato tutto quanto, andava bene, non c'era un graffio, niente, ma era nuovo di scatola, e l'hanno regalato ma non lo sapeva usare, ha detto che per lui ci vogliono telefoni più semplici. Solo gli è andata bene, poi andate in discoteca e l'ha perso. Attenzione, già, aspetta che mi fa far suo contatto lo spinotto, visto che è andato a fondo scala, quindi devo stare attento, devo fissare lo smitter. E sì, è bello il P10, ce ne sono tanti belli. Allora, mia zia ha comprato, e poi non se ne fa nulla, detto tra noi, ha comprato il P-Smart, la Huawei P-Smart, no? Costava intorno alle 2,50, no? Quando l'ha preso lei, adesso già dopo un mese circa lo trovi anche a meno, se lo compri da Media World lo paghi 2,50 sempre. Se lo compri da Amazon lo paghi 200, solo che subito dopo è uscito il P-Smart Plus, no? Che ha un processore Kirin 710, che mi pare sia pari allo Snapdragon 670, no, aspetta, Snapdragon 660, vabbè, comunque un buon processore. ha 4 giga di RAM e 64 giga di memoria, no, di hard disk, non si può dire, di memoria. Però d'altro canto ha delle pecche, ti spiego. Guarda, è quasi uguale al P20 Lite, no? Al P20 Lite, però il P20 Lite c'ha la presa USB tipo C, USB tipo C, la 3.1, che permette di caricare alta velocità, che permette di un invio dati in entrambe le direzioni. Insomma, una cosa più, vabbè, non che mi interessi, a me basta caricare la batteria poi. Poi il P20 Lite ha il wifi a dual band, no? Sia quello a 2,4 giga sia quello a 5 giga e tanti. E invece lì non gliel'hanno messo su questo P Smart Plus. Poi mi pare che il P20 Lite dovrebbe avere l'NFC per fare pagamenti contactless, senza, cioè con lo smartphone lo avvicini a una certa piattaforma e paghi. Vabbè, in Italia sta arrivando solo adesso, a Sassari arriverà ancora più tardi. Ecco, quasi questo P-Smart Plus è stato criticato perché non ha la Type-C, non ha l'NFC e non ha nemmeno il Wi-Fi dual band. Però in più ha più processore, più batteria, che è quello che è più autonomia, che è quello che mi interessa a me, rispetto al P-Smart, cosa ti ho detto di prima, insomma, boh. Poi se tu leggi, ne dicono in tutti i colori, c'è gente che odia la Wii a morte e compra Xiaomi, c'è gente che invece compra Wii e odia Xiaomi, e Xiaomi è tutta strana, non lo so, è un po' ambigua come... E poi i telefoni li fa tutti uguali la Xiaomi, tutti uguali, esce il nuovo modello, è sempre uguale. Poi la Xiaomi fa delle cavolate tipo che non ti mette l'espandibilità della memoria, capito? Non ti mette lo slot per mettere la scheda SD, non ti mette il jack per le cuffie, cioè sta togliendo tutto dai nuovi modelli. Pensa, i vecchi modelli avevano tutte quelle cose e stanno togliendo tutto. Alla fine non capisco perché questa politica, allora preferisco Huawei. Questa era la storia della Canon e della Nikon. Tutti dicevano che la Nikon era migliore, certi dicevano che la Canon era migliore, poi si è verificato che la Nikon ha mille difetti. Chi mi ha detto che era migliore l'ha dovuta mandare a centro assistenza perché gli è partito non so che cosa, non funzionava più bene, non funzionava. E praticamente, ripeto sempre da gusto, io avevo telefonato a un amico di Roma che è fotografo e gli avevo chiesto secondo lui quale dovevo prendere. Lui mi ha detto, guarda già, io in tutti i miei servizi uso Canon, sono per macchine perfette, fanno delle fotografie bellissime, infatti non me ne sono pentito, non mi ha mai dato problemi quella macchina, anche se adesso me la sto vendendo perché non la sto più usando, non ho più la stessa passione di prima, ma la voglio vedere, l'avevo pagata 700 euro quella macchina. Scommetto che ti è passata la passione da quella volta di quel pote che ti ha cancellato tutte le foto di anni di lavoro, di gite, di cose. Scommetto che ti è passata un po' da quello. Mamma mia. Esatto, proprio così. Mi è passato proprio da quello perché chilometri. Ho pensato, se avessi avuto l'altra macchina l'avrei sviluppato, le fotografie le avrei avute. Invece con questa nuova tecnologia, cazzo, ho perso tutto, ho fatto chilometri di bada, eccetera, eccetera. E mi è andato un po' da pensare, capito? Non ci ho preso più gusto, non lo so, cazzo, ero tutto entusiasta, avevamo fatto dei temi proprio precisi, volevo fare tutte le chiese bizantine, eccetera, eccetera, avevo fatto tutte le chiese della bizantina, poi ho fatto tutti i nuraghi, insomma, ho fatto dei programmi specifici, capito? Poi ho fatto le coste, insomma, mi avevo organizzato un po' le cose, niente da fare, vabbè, quando devo andare male va male. È sempre così già, purtroppo. Pensa che io in questo smartphone ho 1 giga di RAM e 4 giga di memoria. Sta cominciando a diventare imbarazzante perché anche se tu togli applicazioni, no? anche se tu le togli e vai a aggiornare, che ne so, Chrome, ti dice sempre spazio insufficiente. Quello perché ho fatto questa lettura, pare che Android scriva un file su tutto quello che hai fatto, tutto quello che hai visto, tutto quello che hai aperto, le foto, i video, in un file, no? Che non è cancellabile col normale smartphone. Per cancellare questo file, liberare memoria, perché poi diventa di dimensioni di vari giga, diventa una cosa veramente ingombrante. Allora, devi, che c'è ma? Cosa stavo dicendo? Devi ruotare lo smartphone, cioè devi permettere, devi ottenere i permessi di root, insomma è un'operazione molto delicata, e se sbagli anche una cosa minima ti diventa un mattone, ce lo devi buttare. È una cosa che io non faccio perché sono un utente medio, non sono di quegli smanettoni che, perché quando li fai root c'hai mille funzioni in più, mille cose nascoste che non sapevi di avere, capito? E perdi la garanzia anche. Poi è un'operazione molto delicata e se sbagli te lo distrugge, devi buttarcelo, quindi è meglio non farlo, però avendo i permessi di root ti permetterebbe di cancellare quel famoso file che puoi cancellare solo da lì. È un problema, ci vuole uno smartphone più moderno, in poche parole. Infatti, ma io per i telefoni non sono, non impazzisco, là. Io quando si guarda me lo compro nuovo, ma se che funziona, almeno futtinuta, c'è ancora gente che c'è telefoni con i tasti ed erano quelli che io preferivo. Allora, io ho sempre detto che oltre gli smartphone è sempre meglio avere... Ma cos'è questo rumore che sento? Ma il gatto è... sento... Ah, aspetta un attimino già. Ci sei? Io. Dove eravamo rimasti? Non ricordo più, ma... Però ti stavo dicendo, lo sai che a Portamona non c'è più quella... Sì, ho letto sul giornale, le hanno rotto la testa, l'hanno rapinata, l'hanno rubato, braccialetti, cellulare e soldini. Ma chi è che rapina una barbona? Dove c'è di quei negracci, quelli nigeriani che si sono buttati sul giorno a Platamona, vedrai? Uno disperato proprio deve essere. Ma poi c'erano sempre quei cani che la proteggevano, se si avvicinava qualcuno cominciavano a mai... Sì, ai cani basta buttargli una polpetta, qualcosa da mangiare e si distraggono. Alla fine, e insomma l'hanno portato all'ospedale, 40 giorni di cure, lo sapevi, sì? No, io sapevo solo che non ce l'ha più, ho visto che non ce l'ha più e basta, pensavo l'avessero mandata via in vigile. Allora, se vai sul sito della Nuova Sardegna, online, e scrivi nella barra di ricerca, Elsa Sotteggia, ci sono tutti gli articoli, compreso l'ultimo. Poi sai, i giornalisti come ingrandiscono la cosa, dice Elsa Soggia trovata in una pozza di sangue. Sì, un po' ha sanguinato la ferita, ma caspita, da dire una pozza di sangue, cos'è? Sembra un film horror. Capito, qualcuno ha avuto il coraggio di... Forse le ha sfilato piano piano la roba, come si stava svegliando le ha dato una botta dietro la testa, mi. Non so se sulla nuca o dietro, comunque, ha parlato di dietro. Altre immagini. È bello che erano le 3 di notte, così dice la Nuova, e nessuno la poteva aiutare perché non c'era un'anima. Ha dovuto chiedere aiuto a quelli che all'alba vanno a fare le pulizie delle spiagge, hai capito? Ma via, povaraccio. E vabbè, diciamo che anche lì non era Mazzita. Vabbè, ma una che chiede l'elemosina, vabbè, lecito, però a fare questo tipo di azioni. Poi ti ho detto, chi è che va a rapinare un barbone, che se c'ha qualche monetina, un cellulare, che poi non è puoi usare, c'è il brettino in traccia, no, è inutile. Sarà stato, te l'ho detto, uno di quei di nigeriani lì, che non hanno nulla a perdere, tanto l'Italia è il bel paese, capito? Vengono a mangiare, a dormire qua, mantenuti dallo Stato, non fanno niente, spacciano, rubano, violentano, capito? Il bel paese, Italia, dice, italiani tutti coglioni, capito? Uno ha detto che se lo sapevano sarebbe venuto, che stavamo meglio in Africa che qua. Sì, voglio proprio vederli in Africa come stavano. Ah? Lascia perdere. Vabbè, certo, loro non sono come i cittadini normali che hanno la casa grande. E cosa pretendono? Questi una volta hanno fatto, pretendevano di avere i documenti italiani, capito, la carta d'identità. Ma così, che ti, magari pretendono anche che gli diano una casa. Devono dare la presenza agli italiani, capito? Nemmeno ai Rom. Ai Rom, dicevo, no? Quelli zingari infami, che gli danno tutto. Ma tu hai visto quelle case che stanno restaurando via Grazia Reza? Le stavano mandando ai negroni, cazzo, perché così so. E li hanno bloccati, li hanno bloccato tutto. Li volevano dare ai negri, quelle case che hanno praticamente restaurato. Aspetta che la gatta sta male, che sta vomitando. Poveretta, riesci a vedere? Mamma mia. Ui, già ne ha vomitato poco. Puffa, aspetta. Qui c'è la puffettina. Perché loro si leccano i peli e poi esce la palla di pelo. Infatti è una palla di pelo. Ehi, mi trovo da bocca le parole. E non so, io l'ho avuto il gatto, ma non lo so. L'ho avuto per 19 anni il gatto. Ehi, ogni palla di pelo, gli occhi gliene stavano uscendo. Ah, comunque c'era Antonello qua. Antonello, ci sei ancora? Sì, ci sono, ci sono. Marco, saluta questo buzzurro, buonasera. Ti ho sentito poco fa, stavo smontando un attimo il DVD e mi si è crepato l'elastico. Ciao Gianni, bene discucito. Tanto, come ti sono passato sotto a casa tua? Ma stavo a chiamarmi a telefono, se siamo andati a farci qualcosa. C'era a casa intanto. E no, che devo mettere a 1:30, stavo tornando a mangiare. Quando sono passato. E io vabbè, dai, già sono andato un'altra volta. E Marco, comunque il gatto lo fa sempre con te, preoccupare, dovresti dare l'erba gatta. L'erba gatta loro la mangiano per purificarsi. Ehi, già, gliel'avevamo messa in un vasetto proprio, cresceva bene, poi sai cosa faceva la puffa? Ci si sdraiava sopra, era tutta rovinata, le piaceva come giaciglia, magari sentiva l'erbetta fresca, si sdraiata sopra, era tutta rovinata. Invece Titi lo faceva nella lettiera questa cosa, si coricava sopra la lettiera. Il veterinario ha detto di farlo infittare, di fare queste cose perché si può prendere avere malattie, malattie, capito? Andava nella lettiera e si curicava dentro. Certo, non è igienico magari, lì fanno la pipì, la pupù. Aspetta, aspetta che ho trovato un codice. Lion Battery Pack. Ah sì, Antonelli, 7,4 volte la batteria. Guarda, della Zastone è marcata ZBT9908. ZBT9908, vabbè. Però battere le minette l'ho controllato, non esiste, te lo devi costruire. Che farabutti, guarda. Sì, vabbè, non sei stato tutto zerotto allora. Come ti avevi fatto, E ti alimenta tranquillamente l'apparato. Solo vedi che un giorno, quando la batteria morirà, non lo potrei più usare come portatile, lo dovrei usare come base fissa o in macchina, per dare la funzione del portatile. Vabbè, comunque tutta la roba elettronica ormai è usa e getta. Dopo tutto tempo o si sfascia l'apparato o la batteria poi si esaurisce. È sempre lì, così sono gli smartphone, per carità, guarda. Comunque Gianni, l'hanno detto, anche se compri uno smartphone di fascia media come il tuo, come quello che voglio pigliare io, dopo 3 anni o 4 anni risulta superato, perché le applicazioni saranno sempre più pesanti, a un certo punto non ce la fa più proprio lo smartphone. Caspita, è persino più innovativo lo smartphone, cioè si evolve più in fretta rispetto addirittura dei computer fissi o portatili. Ripeto ancora che sto facendo una cosa, anda bene, anda bene. E i telefoni sono così, si cambiano come le camicie, lo sai. Il mio LG fortunatamente è a posto, e anche l'altro, l'arancione. Non ho mai avuto problemi né di batteria tanto meno di niente, ma io la carico siano 3 ore, 3, massimo 4 ore la batteria, e dura 2 o 3 giorni, figurati. Poi è quello, il coso, il Nokia Lumia, che ha 2 attacchi per metterci 2 carte, addirittura, figurati, mi sembra sbagliato anche delle G. Più c'è l'attacco per mettere la memoria espandibile, capito? Ehi Antone, quindi tu hai detto il Nokia Lumia col caspita, col non mi viene il nome, con Windows 8, caspita. Marco, guarda che ti ho mandato a Titi, va a vedere. Come già? Ti ho mandato il mio gatto, quello che ho avuto per 19 anni. Ma purtroppo già WhatsApp era solo su quel telefono con quel numero. È andato il telefono, è andato WhatsApp. Sono isolato. Ah, ti dicevo del telefono a tasti già. Io anche quando avevo i due smartphone, che poi uno era di mamma, non ne sapevo usare, no, allora l'ho preso io. Ho detto, un telefono a tasti ci vuole sempre, tipo un Nokia, sai, quelli a tasti, perché la batteria ti dura giorni e giorni. Se devi telefonare non devi aspettare batterie che si scaricano, capito? E infatti lunedì devo ritirare da, come si chiama? Quello in Viale Polo Torres, prima di Ocean, come si chiama? Troni, da Troni devo ritirare un Nokia 130 a tasti, l'unico vero cellulare, capito? Ma non va su internet quello? Allora, su internet costava lo stesso prezzo, in più dovevo pagare 5 euro di spedizione. No, non hai capito, quello, se vuoi andare su internet ci va con la connessione dati per dire. No, io ho voluto un cellulare vecchia storia, GSM, non voglio WhatsApp, non voglio un browser, non voglio niente, ma costa anche 30 euro già. Volevo un telefono solo tasti, perché può servire sempre, ti si sfascia lo smartphone, magari sei isolato, non ne hai di scorta, invece il telefonino a tasti secondo me ci vuole sempre di scorta, perché ne so, ti cade lo smartphone, hai visto quanto sono delicati, a meno che non abbia il Gorilla Glass, si spacca lo schermo subito, è un casino. Senta, sei ritornato ai tempi di Minanna, invece che aveva fatto stai retrocedendo. Ma anche a me piacevo quelli, Marco, te lo confesso, se avesse avuto anche internet e quel telefono mi sarebbe piaciuto anche a me. Io ho avuto di un versinocchia, mi sono caduto in terra, si faceva una pezza di rimpiazzare e funzionava ancora. Un Nokia non mi è mai partito. Tutti quanti li ho fermati perché ho preso altri telefoni, ma non mi sono mai partiti, no. Allora io ho preso il Nokia 130, è proprio uno di quei cellularini che sta in mano, mi c'ha nel palmo della mano, abbastanza contenuta come dimensioni. Poi quando potrò, perché devo fare il salvadanaio, fra 6 mesi, che ne so, a Natale, dopo Natale, cercherò di pigliare uno smartphone nuovo. Ah, conta che adesso costa 300 euro quello smartphone lì, il P-Smart Plus, però si svalutano in fretta, quello già a Natale lo troverai 250, forse anche meno, magari online, perché ho visto che Media World tende a tenere i prezzi, cioè se costava 300 all'inizio dell'anno, alla fine dell'anno sempre 300, capito? Loro sono abbastanza secchi. Però bisogna stare anche molto attenti quando compri da internet questi telefoni, perché potrebbe essere per il mercato estero, potrebbe avere problemi di cui non sai nulla. Anche Amazon è l'onfio, cioè bisogna stare molto attenti, poche parole. Devi chiedere se è per il mercato italiano, se ha la garanzia italiana, capito? Sì, perché ci sono quelli che sono solo in inglese, quelli che siamo tutti in due. Se sono quello in inglese che non puoi cambiare le lingue, sì è vero. No, ma la sua madre, mio figlio ha comprato tante cose e ha sempre comprato bene, dico la verità. Non si è mai pentito di quello che ha comprato. Ha comprato diverse cose. Io ho comprato anche la catenina che c'ho addosso, quella con la croce grossa. bellina, a me piace, la tengo sempre. No, che mi occupo di diverse cose da lavato. Ma lo sai cos'è? Io stavo per comprare la scarpa ortopedica. Tu pensa che a Sassa ricostava, ho fatto il giro delle sette chiese, costava da tutti 40 euro questa scarpa. Su internet sono arrivato a 20 euro, però poi ho detto se la misura non mi va bene, ho paura che magari non mi stia bene, bisogna misurare la scarpa ortopedica, vuole precisa, capito? E allora non ho comprato, l'ho presa da Pina, ma l'avessi fatto. Dopo due giorni mi è uscito fuori il ferro che c'aveva, quello che fa terra l'eredità in su, mi è uscito fuori dalla suola. Gliel'ho portata, me l'ha cambiata, l'altra mi è durata altri due giorni e mi ha fatto lo stesso difetto. E magari sono prodotti presi da fuori lo stesso, loro stessi magari li ordinano dalla Cina, tutto è possibile già, di questi tempi non mi stupisco più di niente. Mi, per esempio, Pomponio ha il Nokia Lumia e ha Windows 8 sopra, non Android. Ma i Lumia andavano bene, sono un po' obsoleti, però andavano bene come telefoni. Vabbè, interessante che faccia le sue funzioni da voi, il telefono è così. Io ci avevo l'S3 che andava benissimo, l'ho formato per comprarmi l'altro. No, ma io, il mio non ha mai fastidio l'occhio a lui. Addirittura posso mettere Windows 10, volendo. Da otto si fa l'aggiornamento, ci metto Windows 10 e cambiato. Non l'ho mai fatto perché non è mai fatto tutto nulla. Ho lasciato così come è perfetto. È veloce tutto, c'ha WhatsApp, non gli manca nulla, c'ha tutte le cose già pronte all'interno, qualsiasi cosa, vai lì e scarichi. Ed è veloce pure. Una cosa, ogni volta che ho aggiornato le cose mi sono sempre pentito, perché magari con l'altra vecchia era migliore di quella aggiornata e non fa aggiornare certe cose, le aggiornate poi magari vanno male. Io so sempre il parere lasciare, se va bene perché devi aggiornare, lascialo così. Infatti non l'ho mai aggiornato, l'ho lasciato così, l'ho lasciato Windows 8, ce l'ha a me, lo sta usando Simona con l'altra carta. E poi c'ho anche il Samsung, quello, il J3, che Simona non lo sa usare in pratica. Lo usa sì, però per altre cose non gliene frega niente, lo usa solamente come telefono per rispondere e basta. In effetti il telefono dovrebbe servire solo per quello, per rispondere, invece adesso tutti sono col telefono in mano, eccetera, eccetera. Su Facebook c'era una foto, c'erano due anziani che sono presi per mano e c'era scritto tutti prendono il telefono per mano, ma questa è la miglior cosa che si possa vedere, tenere unica, allucinante per mano, invece di avere il telefono sono presi loro per mano. E hanno fatto bene. Ui. Avanti Marco, avanti. Aspetta che sto guardando la marca Luiton che fa lo stesso apparecchio, voglio vedere se loro lo fanno, il battery eliminator, ma mi pare che non le fa nessuno, né Jaston né Luiton, tutte le marche che lo fanno, identico, cambia il nome, non fanno il battery eliminator. E vabbè, ce lo costruiamo noi quando sarà a luogo e tempo debito. Ma in realtà lo sta cercando un telefono perché non prende più quello lì, cade la linea oppure di telefoni e ci ti dice che è occupato, irraggiungibile, insomma non prende più, con la zona lì non prende, adesso non so se dipende dal telefono o se dipende anche dalla zona. Io il bagno me l'ho fatto, adesso arrangiatevi, ciao. Il bagno ti è fatto, dove sei? Al mare? No, in piscina, non al mare. Ah, cavagava. Andava, via da te. Anch'io me l'ho fatto il sudore. Sì, via da te. Tutti lo possono fare. No, ce l'ho poco fa, avevo piazzato l'antenna, una tribanda, capito? Quindi stavo provando il baracchino. Il DAC con il microfono di tavola. Va bene, dai, ci sentiamo dopo se ci siete, vai Marco. Ah, te metti a caldo, se non ce l'ha fatta a resistere. Beh, che ho messo una verticale in tribanda, non ho messo una manta, vai. L'attività amatoriale devo farla, certo non mi metto a montare direttive, no. Direttive devo smontare e mettere dentro le scatole. Ho messo una tre tribanda, 10, 15 e 20 della PKW più una multibanda MUI e basta. Boh, finito. Segnali già sono belli, già sono buoni, già va bene. Va bene. Interessante è che abbi l'antenna e possa modulare. L'antenna per la 27 da 340 euro. Questa costa 340 euro della PKW più 3 elementi. Capito? Tribanda, dai. Vabbè, lasciamo aperto. Ma purtroppo mi serve. Ci sentiamo dopo, riprendi Marco. Eia. Io adesso invece mi piglio un bel gelato a rinfrescarmi. Ok? Ciao, a dopo Claudio, dai. Eh sì, mi prendo un gelato, dai. Antone, riprendi tu con Gianni, dai. Bravo Marco, evita di dirlo poi, mi viene la gambura a me e non ne posso mangiare. Mangiati un gelato per elementi, cioccolato, fragola e limone. No, non sono i miei gusti quelli. Io quando prendo il gelato di Suso prendo cioccolato, fior di latte e panna montata con la struzzatina di cacao sopra. No, io piglio quel gelato di Ruspinto io, fragola, limone e l'altro da capo non me la metto nel manco. E Finocchio! No, avanzate di fare. Ti immagini? Oh, comunque, allora, adesso vi spiego. Quando prendiamo il gelato sfuso, mamma preferisce la frutta. I gusti alla frutta. Io tendo sempre a prendere le creme tipo nocciola, pistacchio, gusto noce, stracciatella, tutti quelli che piacciono sicuramente anche a Gianni, cioccolato, ma il cioccolato un po' meno. Tiramisù, oppure la zuppa inglese, sai. Marco, ti sta succedendo una cosa, che stai scendendo più basso. È come se fosse senza pelle, controlla che stai tirando il baracchino. Ehi, mi si sta staccando il PL ogni tanto, dai. È saldato male, lo devo rifare, dai. Dai, mi assento un attimo. Vado a pigliare il gelato, ciao. Ciao. Se no te lo do io il gelato, se lo putto. Gelato caldo. Dottore, cosa mi è successo? Cosa mi è successo? Perché? Passo so. Marco arriva più forte qua di te. Non è successo niente, non te ne è sempre uguale. A meno che non sia sceso al fumo ieri sera, boh. Stasera Leo, è perfetta. Io non arrivo in quella zona, Claudio. Te Marco sei tu liscio. Va bene. Adesso sono davanti, già lo sai tu dove sono già. Non lo sa nessuno, lo sai solo tu. Però evidentemente Marco c'ha qualche guasto allucinante. Minchia, 9.25, se tu sei 9.20, poco più 9.20, e Antonello è quasi 9.20. Però va bene, a voglia. C'è anche l'avanzo. Vabbè, sono assinato, tu pensavo arrivassi meglio, ma sicuramente c'è qualche ostacolo per me. Sicuramente, forse la parte bassa, lì via, non lo so. Mentre lui, Marco, è micidiato. Vabbè, se va 4 watt. Vabbè, non c'è problema. Che problema c'è? Non sto dicendo perché ho un orientamento sui segnali, ma lo fai. Più forte che arriva qua, io Maria per il momento, 9.30. Guarda il segnale bene, guardalo bene, che non hai visto bene i segnali. Vai, stacca, vai. Se attacco io ti faccio fare il doppio incrocio, già. Interessante sentirci cosa dei da frutti, ma è interessante entrare perché non sta più entrando nessuno, gatto. Ui. Prima c'era almeno la compagnia, boh, addirittura io faccio quattro chiacchiere, adesso non c'è nessuno, mi entra qualche volta Gio Maria, e poca gente, squalo qualche volta, ma non sono sempre là. Ti vediamo al canale 10 di nuovo, non ti preoccupare. Guarda lo smitter mio invece, guarda lo smitter mio, guarda che buco l'antenna, metto la mano nell'antenna, guarda, questo è un baracchino, ma guarda, aspetta, tiro su, ecco qua, questa è l'alta potenza, guarda, sale. Sei 9.30 qua, là. Attaccato, cioè attaccato, con la potenza alta. due passaggi, io ho tirato la segnale dell'ultimo passaggio. Allora, questo è con 25 watt e questo è con 8 watt. Da 9.15 a 9.30. Ma te lo conto. No, sei di fronte a me. Oh, Marco, non capisco. Ma lì che sei, Marco, sì. 4 watt. Sto usando il 3009 omologato. Marco, c'è lo stesso segnale tuo o Claudio? Figurati, siete attaccati. Vabbè, no, io tengo a bassa potenza perché le antenne sono praticamente in un pilastrino che non serviva e quindi le ho forato, messo, sono 2 metri di palo, sia da una parte che dall'altra. Capito? Proprio un lavoro fatto bene, sì, però è basso perché non voglio... Sicuramente per quello che non riesco a prendere bene Antonello, poi questa è una multibanda, quindi un po' di perdita ce l'ha, no Marco? Ma ogni... Sono affuso te, scappate piele nuovo Marco. Panito è Marco, come mai? C'ho il PL che non fa contatto, ogni tanto si interrompe il centrale. Ah, io ho fatto lo nuovo, Cosa stavi dicendo? I tre elementi? Allora, l'elemento dei 10 metri, quanto è di lunghezza d'onda? Un quarto, mezz'onda oppure di più? Ma lo sai che manco letto, ti dico la verità, perché non la conoscevo questa, me l'ha detto un collega radioamatore che lui ha messo quella lì per problemi di condomino. Io ho detto, ma quasi quasi la prendo anch'io, costa un patrimonio, però sono antenne buone, io c'ho tutto PKW, anche le direttive sono a Sassari PKW, capito? Non lo so, devo prendere le cose e guardare, ma penso che sia un quarto d'onda o no? Praticamente tu stai uscendo con un'antenna un quarto d'onda, quindi non ci cortavi. Penso che sia... No, aspetta, avevo letto una volta nel computer. No, è 3 elementi per 5 ottavi. 3 per 5 ottavi. Quindi ho Gianni. Aspetta che mi sto piegando la roba. Continuate voi, già vi ascolto. Un secondo solo, vi ripiego la roba alla metà. La radio com'è già? Già va bene, Claudio, va bene. Già funziona male questo mio più 5. Dovrebbe essere 3 per 5 ottavi sicuramente, ma te lo confermo, adesso devo andare dentro a prendere il coso che ho messo tutto dentro la cassetta. Ah, io ho aggiustato questo piede che non stai uscendo, segnale 1. È un casino, Se mi dici la sigla me la guardo su internet, me la guardo. PKV verticale modello. Verticale 3V mi pare che sia, boh. È una sola mica fa la PKW doppio, 3 elementi, 10, 15 e 20, solo quella c'è. Guarda, verticale PKW doppio, 3 elementi, 10, 15 e 20 e te lo va. A me Antonè, come ti sta già? Bene, bene, a voglia, combattendo insomma già sto bene per quello. Ho detto, da cosa non ci stai più andando, da Nico, e Sugar? Io quando sono trasferito non sto più andando. Praticamente vabbè, non sono mai. No, io sto andando lì ogni tanto, non è che ci vado tutti i giorni, no? Capito? Ci sono andato 6 giorni fa perché mi ha telefonato lui. Dice lì che devi mettere a posto un fuoco a Fiammarino. Ma allora dice che c'era la batteria di scarica, invece non c'era un tubo. Io infatti gli ho dato Giuseppe ieri, ho detto vai, glielo porti, ho detto così devo andare a te, glielo dai. Era giovito, infatti così era. Sono avuto un paio di birre e poi me ne sono andato. Già sto andando ogni tanto, di mattina o di sera, facevo una scappatina. Quindi 4 ore a 20 minuti, capito? Ma anche al centro storico sto scendendo, Scendo lì, a volte vado a vedere se c'è pesce lì al mercato, a vedere quanto viene. L'altro giorno mi sono spaventato 7,90 €, cara. Aiuto la cappellina, aiuto. Chiamato dallo spirito, io le bistecche che è meglio, almeno risparmio. No, troppo costa quelle cose lì. Troppo. Va bene. E mai trovato lei, Marco? Ancora male. Ma qua ci vuole tagliare col piede e farlo nuovo? Oppure un mandrone in chimici? Nulla. Marco, proprio sentavo neanche uno. Ma infatti non arriva per niente qua. A meno che non sia salito il sapato, qualcuno gli ha abbracciato il capo. No, stavo parlando stasera. stasera non ne ha fatto difetto, stava andando benissimo. Tutto il giorno che stava andando bene, non lo sta facendo adesso. Hola, scusate, dai, ai minimi termini è ridotto. Credo che sia la GP, il modello 3, GP KV3 o roba del genere. Sì, la V me la ricordo, sì, V3, K3, quella lì comunque la fa una solo, quella lì. L'ho presa perché è molto robusta rispetto agli altri, capito? Come di solito quella casa lì lavora molto bene. Io le direttive è stato consigliato da due radioamatori abbastanza esperti, quindi sono molto buono. E questa verticale è ultima, va bene. Allora, la lunghezza degli stili è occhio di stazionaria. Lunghezza dunque, aspetta, radiali inclusi, no, aspetta. No, radiali inclusi, sono pochi radiali. No, io ci sono. Allora, lunghezza 5,20 m, 3,70 m, 2,60 m. Allora, i 2,60 m sono per i 10 metri. E ti confermo che è un quarto d'onda. Stai uscendo con un quarto d'onda. Pensa se avessi la 5/8 qua. E allora l'altro modello, 3/5/8. Questo è un quarto d'onda, sì. Allora, quella. Quarto d'onda. No, sentiamo bene, no, 20 metri stamattina. Funzionava benissimo, mi ascoltavano abbastanza bene, c'era un questione in Alta Italia e sono entrato 5-9 con la potenza della radio con 100 watt, quindi vai Gianni. E dove l'hai installata? Sul tetto? Sul tetto? E allora ci va la barracca, ci viene mai c'è che ho avuto, no, il lattrino nascosto dietro, non si vede neanche, capito, c'erano delle rocce lì. Ho fatto fare un pilastrino, ci ho messo il matto, ho messo le staffe, ho messo un palo a 2 metri e ho messo l'antenna, una da una parte e una dall'altra. Comunque pensate che ti senta la buia, ma risulta in alto? Non si vede neanche la strada, no, ho fatto apposta giusto per, siccome io sono a vista ottica con voi, quindi non serve a niente, giusto per fare due chiacchiere quando sono qua, poi si vedrà, più avanti si vedrà, per il momento c'ho anche un'altra postazione, quindi l'inverno sarò più a Sassari che qua. Quindi hai due case là, adesso, sei capitalista. Sono ministro senza portafoglio. Come ti ci entra lì? Sì, ce ne sono entrati abbastanza. A uscire ancora già ce n'è, ma sono investimenti che bisogna fare, da grandi, da piccolo non si riesce a fare. Sacrifici, lo sai tu già come funziona. Va bene, lasciamo stare le cose dove sono. Cosa stavo dicendo? Non me le ricordo, vabbè. Marco, ma quindi su WhatsApp non ci sei più praticamente, ti sei acceppato tutto? Guarda, siccome io ho preso una scheda Iliad per l'altro cellulare, poi una scheda Homopile per quello che si è rotto, no? Potrei abilitare l'altro numero su WhatsApp. È che io lo facevo per dare solo un numero ICB, capito? Cioè quello c'è, solo che se non compro uno smartphone nuovo sono bloccato, capito? Sono bloccato. Vabbè, si vedrà, dai, casomai già mi arrangio con l'altro smartphone. Ok? Gappa, va bene, no, se devo mandarti qualche foto o qualcosa, non te la voglio mandare, va bene. Ok, riprendi Antone, dai. Cappa, ma una foto del vicino di casa, nudo, con le mani in tasca. Non sta più tornando. Gli altri doveva. Se fa così stanotte, che non c'è mai confido male, già le do l'uomo. Claudio, lo sai che ti ho fatto la femmina per te? Cosa già? Che ti ho fatto la femmina per te, ormai è ancora piccola, deve crescere ancora. Si è fermato un tipo l'altro giorno, il cane come il mio, non ne ho trovato ancora maschi, io ho trovato due femmine, un anghiero, una pottottore, ma maschi non ne ho trovato. E lei, quella c'è la fetta da farne accoppiare, ma è ancora il piccolo, c'ha 3 mesi, e allora sarà crescita. 3 mesi, no, piccolo, meno un anno e mezzo. Cassini qua basta. Uno è buono. Pure avanti subito. Ma ah, vai torna, ne ha tanto non si punta, non avere qualche cane femmina, ma basta. Ho dato anche le pastiglie dell'altro veterinario che continuava a masturbarsi, è una cosa bruttissima, potevo portare nessuna parte, sta zia sempre all'Anda e Caraibi. E allora ho dato le pastiglie, adesso le è passato. Ma va bene, Filippo già ha 6 anni, sta entrando nel 7º anno, quindi già va bene così. Claudio, ma ti è mai capitato che riesci a gonfiare il glande come un palloncino? Sotto? Ehi, proprio la testa, come un palloncino lì si fa, quando è in calore. Non l'ho mai notato, Filippo proprio si masturba, capito? Proprio tutto si muove, sembra che stia facendo sesso. E basta, toglie fuori tutto il tubo, poi lo rimette dentro, normale, come se niente fosse. Spesso era proprio quando ho fatto una foto l'altro giorno della mano. Può essere, magari gli si ingrossa troppo. No, Filippo no, non l'ho mai notato, la verità. Non l'ho mai notato. Adesso poi vabbè, un po' più tranquillo. Prima addirittura si girava intorno, quasi a proprio era una cosa allucinante. Ed era brutto, capito? Perché ogni cane che vedeva, ma anche se vedeva a me fermo parlando con qualcuno, lui si masturbava. Non è che si attaccava alle persone, però si... capito, è una cosa brutta per il cane, e quindi niente, ma me l'hai già mandato, adesso lo guardo. Riprendi Antonio. Eia, adesso che no, aspettate, mi stanno chiamando, arrivo giù subito, devo dare acqua a un cane. Oh già, io so che quando il cane è molto in porra glielo può fare, si gonfia, si dilatta, quella parte lì si dilatta molto. Già, ma quello lì è il primo petto, il cornicione, cosa... anche Filippo, il primo petto così ce l'ha grande, poi tira fuori tutto il resto, capito? Claudio, forse non l'ho visto bene, qua è un palloncino, non ha mai avuto così. Cioè, sì, quando un'altra volta gli è successo, ma è quello che chiamano nodo, volgarmente, che fa il cane. Quando sente odore di cane in calore, lui comincia così. Poi come cammina, a volte tu, spruzza. Sì, no, il mio proprio è allucinante. È brutto anche da vedere, capisci? Sembra un cristiano, sempre. Si inchina, abbassa le zampe di dietro, sembra un coniglio. È bruttissimo. Cosa hai detto, Marco? No, non me lo ricordo. No, io so solo che da dopo l'operazione sarà che prendo questi farmaci, questi ormoni, non... niente. Non pervenuta. Sei diventato sterile. No, sterile no, ma non... vedo che la libido si è calmata molto, anche troppo. E me l'aveva detto l'endocrinologo. Casomai poi già c'è qualcosa, c'è. Ma francamente non mi interessa. Tanto sono libero adesso. Adesso, già da un bel po', casomai se mi capita qualcosa sotto, già un filo di Viagra. Già, guarda lo stato mio che c'è, vabbè, c'è il coso finito, il gazebino. Ma c'è anche Filippo, guarda quanto è diventato grasso. No, che su volta? È già uscito, magari. Nello stato. Aspetta, lo rimetto. Un mio amico gli è morto il cane, il pastore tedesco, il figlio di Hannibal, cazzo. L'aveva pagato un bel di soldi per il pastore tedesco per fare sui 2000 euro. Figlio di campione italiano, eccetera, eccetera. Mi è morto delle smaniosi, fulminante. L'ha portato al veterinario, diceva le gambe molli dietro, non le reggevano più. Aspetta che c'è gente che hanno suonato. Così è. Oh raga, vi devo lasciare che è arrivata gente, dai, vi saluto tutti, mi ha fatto piacere, fatevi sentire spesso, dai, ciao. Ciao Gianni, ciao, ci sentiamo. Adesso se riesco metto la scheda solo GSM per telefonare su questo smartphone. Se riesco trasferisco tutti i numeri dalla SIM al telefono, in modo che siano sul telefono, se me lo fa fare. E poi rimetto la scheda per navigare e metto WhatsApp. Quello che posso io faccio, dai. già, guarda che l'ho messo a Filippo nello stato. Vabbè, prima c'è la foto del Casemino, poi c'è Filippo, guarda, avanti di metà braccio. C'è poco veloce a chiudere. Quando arriva gente è un casino, vabbè. Io sono sotto la veranda. Io sono rinchiuso, però almeno ho il ventilatore a soffitto e sono in perigioma praticamente. Sì, sembra che si sia stabilizzato, poi non va bene però, questo spinotto è da rifare, dai. Scusa Marco, cosa hai detto? Che è da rifare lo spinotto qua. Ma taglialo, cosa ci vuole a farlo, scusa? Lo tagli e lo fai. Io, magari no, col caldo, lo farò quando rinfresca un po', dai. E il caldo c'è, un altro duffetto. Si è abbassato il vento, adesso voglio tutto appiccicoso. E qua come è andato, se? Qua come è? Antonello, e lui quando va via, sta via giorni, poi riprende. E io vabbè, lascio il preventivo giusto così per fare due chiacchiere, poi l'inverno sono attratto, quindi si sta meglio l'inverno qua, poi lascia perdere, c'è un vento in più, un freddo d'inverno. Io preferisco sempre l'inverno che l'estate, perché l'estate più la pelle non te la puoi togliere, invece l'inverno ti copri, ti riscaldi, ma l'estate è una cosa avvicinante. No, l'estate la campagna già va bene, anche se c'è tutto quello che serve, tutte le comodità, però l'inverno è sta meglio in città, capito? Sta meglio in città, l'inverno, l'estate, no? Lui, l'altro giorno la terra apposta, un giorno vi ho salutato e sono salito su, acceso, era un caldo, ho guardato il termometro, c'erano 28 gradi dentro casa, ma non tavi, sono sparito subito. Ma anche qua quanto credi che ce ne siano? Qua ce ne sono in questo momento 30. 30 gradi dentro casa c'hai, e la Madonna, ce n'è 25,8 esterni, può darsi pure. Ma forse influisce questo baracchino che sta scaldando un bel, il termometro è attaccato, è a fianco, è proprio a fianco. No, è possibile ci siano. Resta un po' di aria c'è, quindi sicuramente, però non è maestrale, niente. C'è una brezza, però c'è un appiccicoso, dove? Adesso faccio un altro tuffetto. Dai Marco, io come ne vado? Sono rientrato, vi ho salutato. Adesso mi bagno un attimino, poi smizzaglio col cane. Che lui esce dall'altra parte. Almeno gioca un po'. È sempre cuccato sotto la veranda. Insieme ai gatti. E intanto a proposito di gatti, vedi? Ogni volta che lo porto lì, l'altra volta si è preso le pulci. Stava sempre grattando, c'è il canto, ma non l'ho lavato neanche un mese fa. L'ho chiamato il veterinario, gliel'ho detto, mi ha detto, con i gatti gioca? Ha detto sì, abbastanza, perlomeno stasse molto a contatto con i gatti. E dice allora, spruzzali i frontline perché sicuramente c'ha le pulci. Infatti gliel'ho spruzzato, l'ho tutto spartolato, non si è più grattato. Adesso martedì lo porto da Monica in via Pasqua e lo faccio lavare di nuovo. Sì, sì, gatti, guarda che l'estate scorsa era terribile, abbiamo dovuto mettere lo stesso medicinale tra le scapole, no, quello liquido, perché era una cosa, invece quest'anno poco, anzi niente direi. Lo so, vabbè, ma quando il cane e il gatto è a casa è un discorso, questi sono fuori, capito? Questi sono gatti che lui gioca fuori e quindi se mi si avvicinano, fanno ed è un casino. Adesso martedì lo porto a lavare perché domani è chiuso, martedì ho già preso appuntamento alle 10, lo porto a lavare e poi cerco di tenerlo a distanza dai gatti perché purtroppo i gatti ci sono, già fatti. Non è che li puoi mandare via, anche perché è meglio che ci siano i gatti per i topolini di campagna. Va bene, dai, c'è Antonello, salutalo, io chiudo Marco, sono già le 7:20, faccio qualche altra cosetta e poi prepariamo la cena al freschetto. Ciao Marco, vai, ciao, mi faccio sentire adesso. Se vi volete spostare su 10 per noi il problema non ce n'è. Così lasciamo il canale libero ai giovincelli che loro fanno due chiacchiere per i fatti loro. Se volete passare al 10 quando ci sono io adesso diciamo in linea di massima, dai, fino a quando fa caldo. Sono qua e quindi già mi faccio sentire, ok? Sì, guarda, l'altro giorno sono riuscito a contattare Valerio, era qui sul 23 e arrivava a Santiago, un segnale bassissimo, appena udibile, eppure l'ho riconosciuto che era lui. Lui mi ha sentito altrettanto basso, allora ha alzato un po' la potenza, abbiamo parlato, però non si sente tanto bene questo periodo. Così mi ha detto, un po' così, non si sente tanto bene. Casomai poi se riusciamo, è che siamo in pochi, Caltegiani entra non tutti i giorni, Pomponio lo stesso, vediamo cosa possiamo fare, dai, quello che possiamo fare lo facciamo. Vabbè, se non sono io, invece stare qua a fare questo per non disturbare. Possiamo fare ruota sul 10, loro magari fanno due chiacchiere per i fatti loro, non c'è problema, per carità. Siamo quattro gatti, o qua o là, loro vengono lì, noi veniamo qua, insomma. Visto che 10 è molto conosciuto perché Valerio, ci siamo sentiti, ma non sapeva niente che c'era gente sul 23, no. È già da un bel po' che c'è gente sul 23, adesso io sul 10 non sto più trasmettendo perché non ci sono più, quindi cioè, non c'avevo neanche antenna. E quindi l'ho detto Marco, Gianni, insomma tutti quelli che entrano sul 23 a fare due chiacchiere, Giulio, eccetera. Però visto che adesso ho ripristinato anche qua, ci possiamo risentire nuovamente, così entrano anche quelli di Alghero, capito? Va bene, dai, vediamo, comunque un canale vale l'altro, l'importante è che ci sentiamo e facciamo due chiacchiere. Ciao Marco, lì saluta mamma, dai, ci aggiorniamo, sto andando al caldo qua sotto, non sta girando aria, mi sposto dall'altra parte e faccio uscire a Filippo, dai, ciao. Buttati in piscina, tu che puoi, fallo, dai, già sentiremo poi, dai. Ciao Claudio, ciao, buona serata. Ehi, non tutto il giorno, sali scendi, mangio l'ubloro, finta che diventa il naso, ciao. ce l'avessimo noi la piscina, sarei tutto il giorno in acqua, lo sai. Non fa, già ci sto parecchio, ma non fa perché ti stancami, io quando sto morto e faccio vai e vieni, mi muoio la draia e subito acqua o roba fresca. L'anzianità è brutta, ma capito? Dai, ci aggiorniamo, poi ci organizziamo comunque per fare qualche cosetta, dai, ciao! Già non sei anziano, 75enne, non 70enne, ancora ne hai da. ciao. Vabbè, ma i movimenti sono, capito, più lenti e ti sta anche prima, quasi 60 sono. E quindi, insomma, ci siamo, dai. Da, quando ero giovane era sicuramente andava meglio. Ciao. Com'era quella frase? Vabbè, me la ricorderò, dai, ce la dico un'altra volta, ciao. ciao. La radio la lascio così, va bene? Sì, guarda, allora in alta potenza perde un po' in radio, è più un po' soffocata, un po' più saturella, potrei definirla. Invece a bassa potenza è splendida. No, lasciamo a bassa potenza, già va bene. Alta potenza la mettiamo quando magari c'è qualcuno fuori che non ci sente, ma per fare questo tra di noi a voi che basta. Basta e avanza. Dai, ci sentiamo Marco lì, ciao. Ciao. Antonello ci sei, se no chiudo. Attenzione Battigio. Hola.